E buonasera a tutti i radioascoltatori di Radio Alma 101.9, la vostra frequenza che vi accompagna sempre tutta la settimana e il lunedì dalle 21 alle 22 con i colori dell'anima. Allora, intanto mandiamo l'ora. 21 In realtà sono le 21 e 4 minuti, quindi siamo qualche minuto in ritardo, ma comunque vi auguriamo buona serata da me Rosanna e da... Benedetta, buonasera a tutti. Ecco, Allora, Benedetta, intanto ci vuoi dire qual era il brano che abbiamo appena ascoltato? sì, mi devo impegnare un po' perché il titolo è lunghissimo, è una bellissima canzone di Lucio Battisti che si chiama Davanti ad un distributore automatico di fiori dell'aeroporto di Bruxelles, anch'io chiuso in una bolla di vetro. Ecco, abbiamo scelto questo brano così per questo titolo assolutamente insolito. Era una canzone che io non conoscevo e con la quale appunto cominciamo la trasmissione di questa sera dei colori dell'anima. Valentina, nella trasmissione che avete appena ascoltato, vi ha parlato, anche lei ha fatto riferimenti chiaramente ai 150 anni dell'Italia e anche noi questa sera vogliamo dedicare la trasmissione a questo argomento. E come lo faremo? Lo faremo parlando di personaggi che secondo noi sono o sono stati molto importanti per l'Italia, di nostri contemporanei, ma anche di persone che non ci sono più, in vari ambiti. E naturalmente abbiamo scelto con Benedetta alcuni personaggi che secondo noi sono molto significativi. Allora, intanto, per quanto riguarda la trasmissione, e ve lo ricordo brevemente, I colori dell'anima va in onda ogni lunedì dalle 21 alle 22 in diretta. E in ogni trasmissione, quindi, non solo affrontiamo un argomento che può avere a che fare, per esempio, con l'attualità, ma scegliamo anche un colore. Allora, chiaramente il colore che viene più spontaneo sarebbero il verde, bianco e rosso, però io direi che per la varietà dei personaggi di cui parleremo stasera possiamo anche parlare dei colori dell'arcobaleno. Dunque, e poi volevo anche ricordare che le nostre amiche Monica e Carmen, che si alternano con noi per la conduzione di questo programma, hanno già parlato lunedì scorso sempre di Italia, hanno parlato dei primi 50 anni della vita d'Italia, però loro continueranno con questo argomento. E ne parleranno quindi nelle prossime puntate dei secondi 50 anni e poi ancora dei terzi, quindi dedicheranno ancora un paio di puntate a questo argomento. Allora, Benedetta, cominciamo con la bandiera. Ecco, cominciamo con una citazione, diciamo, letterale. Sovracandido vil, cinta d'oliva, donna m'apparve. Sotto, verde manto, vestita di color di fiamma viva. Sembra che con questi bellissimi versi del Purgatorio, Giuseppe Mazzini si sia ispirato per la scelta del tricolore della nostra bandiera. Va aggiunto però che tricolore italiano, quale bandiera nazionale, era nato in realtà a Reggio Emilia il 7 gennaio del 1797, quando il Parlamento della Repubblica Cispadana, su proposta del deputato Compagnoni, decretò che si renda universale lo stendardo o bandiera cispadana di tre colori, verde, bianco e rosso, e che questi tre colori si usino anche nella coccarda cispadana, la quale debba portarsi da tutti. E a noi piace citare questi versi perché ci riportano ad un grande italiano, il primo di cui vi parleremo brevemente questa sera, che è Roberto Benigni, e che in una trasmissione del Festival di Sanremo del 17 febbraio scorso ha parlato dell'unità d'Italia e fra l'altro anche della bandiera italiana. Benigni è il primo personaggio di questa carrellata che ha tirato fuori il meglio dell'italianità, è diventato famoso per il film del 97 La vita è bella, di cui Benigni è stato attore, regista, sceneggiatore, eccetera, però film che, come ricorderete, ha ricevuto ben 3 Oscar come miglior film straniero, per il migliore attore protagonista, che era appunto Benigni, e anche come miglior colonna sonora drammatica. Quindi, Rosanna, mi sembra che possiamo davvero essere orgogliosi di Benigni, sia come attore e come regista che rappresenta l'Italia nel mondo. E Benigni, proprio qualche anno fa, è stato ricevuto anche dall'Università Cattolica di Lovanio, dove ha ottenuto una laurea honoris causa. Era quello il periodo in cui Benigni ha iniziato a portare in giro, a far conoscere Dante e la Divina Commedia, e che ha dato quindi la possibilità a molti, compresa me stessa, di poter appunto riscoprire la Divina Commedia attraverso una spiegazione molto brillante, molto di facile ascolto. Ci sarebbe ancora molto da dire su Benigni, ma appunto, ritornando al motivo della trasmissione di oggi, Benigni durante il Festival di Sanremo ha spiegato con passione, con dovizia di particolari, l'Inno d'Italia scritto da Goffredo Mameli, secondo me facendo innamorare anche coloro che non hanno mai particolarmente apprezzato questo testo. E dopo Benigni direi che possiamo passare al primo brano musicale di questa serata. I colori dell'anima, ogni lunedì sera alle 21 su Radio Alma. E questo era Cesare Cremonini su Radio Alma 101.9 in compagnia di Rosanna e Benedetta. Allora, Benedetta, prima di ridarti la parola, volevo ricordare ai nostri fedeli radioascoltatori il nostro telefono 02 345 2656, il nostro indirizzo di posta elettronica colori.anima@gmail.com e infine il nostro sito radioalma.blogspot.com. Allora, a te la parola. E dunque continuiamo il nostro percorso alla scoperta delle persone, dei personaggi che hanno fatto e che fanno tuttora la storia, la grande storia dell'Italia. Mentre nel 1997 usciva il film La vita è bella, di cui abbiamo accennato prima, Dario Fo vinceva il premio Nobel per la letteratura. I suoi lavori teatrali fanno uso degli stilemi comici dell'antica commedia dell'arte italiana e sono rappresentati con successo ormai in tutto il mondo. In quanto attore, regista, scenografo, drammaturgo, costumista e impresario della sua stessa compagnia, Dario Fo è davvero un uomo di teatro a tutto tondo, sull'esempio di Edoardo De Filippo. È famoso per i suoi testi teatrali di satira politica e sociale e per l'impegno politico nell'area di sinistra. La sua attività teatrale personale è legata a quella della moglie Franca Rame, artista anche. Sì, infatti, tu parlavi di Edoardo, è un altro personaggio che con la sua napoletanità ha interpretato tutti noi italiani in realtà. Nato nel 1900, già nel 1931, insieme ai fratelli Peppino e Titina, formò la compagnia del teatro umoristico I De Filippo, che durerà fino al 1944. In questo periodo scrisse opere come il famosissimo Natale in casa Cupiello. Nel 1945 scrisse Napoli milionaria e successivamente fondò la compagnia di Edoardo, che rappresentò nel 1946 Questi fantasmi e di lì a poco, con esiti trionfali, Filumena Marturano, destinato a divenire cavallo di battaglia della grande Titina. Seguirono altri capolavori tipo Le bugie con le gambe lunghe del 47, Le voci di dentro del 48 e La paura numero 1 del 51. Nel novembre del 1980 gli fu conferita la laurea in lettere honoris causa dall'Università di Roma e nell'81 fu nominato senatore a vita. Morì nel 1984 a Roma. E abbiamo finora parlato di uomini, ma Potremmo dire che fra gli attori italiani più famosi, più celebri nel mondo, vi sono in realtà moltissime donne, finalmente, aggiungo io. Certamente fra le varie, tra virgolette ovviamente, Gina Lollobrigida o Sofia Loren, a me viene da pensare ad Anna Magnani, un'attrice forse meno fortunata, ma che è riuscita a interpretare al meglio alcuni film del neorealismo italiano. Anna Magnani diceva: «Non so se sono un'attrice, una grande attrice o una grande artista. Non so se sono capace di recitare. Ho dentro di me tante figure, tante donne, 2000 donne. Ho solo bisogno di incontrarle. Devono essere vere, ecco tutto». Anna Magnani è considerata una delle più grandi attrici della storia del cinema. Ci sarebbe ovviamente molto da dire su di lei, ma possiamo ricordare, come ad esempio, due momenti importanti della sua carriera. Il primo nel 1945, quando raggiunse la fama mondiale grazie all'interpretazione nel film Manifesto del neorealismo Roma città aperta di Roberto Rossellini, con Aldo Fabrizi e Marcello Pagliero. Nel film Anna Magnani è protagonista di una delle sequenze più celebri della storia del cinema, la famosissima corsa dietro un camion tedesco nel quale è rinchiuso il marito, al termine della quale il suo personaggio è ucciso dai mitra nazisti. Il secondo momento, altrettanto importante, è invece del marzo 1956, quando fu la prima interprete italiana nella storia degli Academy Awards a vincere il premio Oscar come migliore attrice protagonista, conferitolo questa volta per l'interpretazione di Serafina delle Rose nel film La Rosa Tatuata del 1955, con Burt Lancaster per la regia di Daniel Mann. E tu li hai visti questi film, Benedetta? Li ho visti tutti perché sono una grandissima appassionata del cinema neorealista e in generale del cinema in bianco e nero italiano. Sì. Sì. Allora, ecco, dopo Anna Magnani io proporrei una piccola pausa musicale, sempre su Radio Alma 101.9 con la trasmissione I colori dell'anima, mentre sono le 21:19. Mi raccomando, rimanete sintonizzati e ci ritroviamo fra pochissimo. E avrete sicuramente riconosciuto Pavarotti, insomma, anche qui un po' di italianità, appunto con la sua voce possente, con la canzone O Sole Mio, che forse è una delle canzoni più conosciute dagli stranieri, o almeno una delle prime che viene in mente quando si parla di canzoni italiane. Allora, sempre qualche informazione pratica, quindi siete all'ascolto dei colori dell'anima a Radio Alma, il nostro telefono 02 345 2656. Allora, cambiamo argomento. Abbiamo parlato finora di attori cinematografici, di attori teatrali, abbiamo parlato di alcuni degli attori che secondo noi rappresentano l'Italia, ma ovviamente ne abbiamo moltissimi a cui potremmo dedicare qualche parola. Vorrei un po' cambiare argomento e vorrei parlare invece dei professori, delle professoresse, dei ricercatori, della professoressa Rita Levi Montalcini. Che pensavo che ti riferissi a me. No, vabbè, stiamo scherzando, ovviamente. Sì, ovviamente mi riferivo a te. Dunque, Rita Levi Montalcini, nata nel, possiamo dirlo, lontano 1909, visto che è ancora più che vivace come ricercatrice, come persona, nata nel 1909 a Torino. E fermamente intenzionata a proseguire la sua carriera accademica come assistente e ricercatrice in neurobiologia e psichiatria, fu costretta a causa delle leggi razziali emanate dal regime fascista nel 1938 a emigrare proprio qui in Belgio insieme a Giuseppe Levi. Questi sono gli anni assai travagliati che colpiscono tutto il mondo, ma soprattutto l'Europa. Nel suo girovagare nel 1943 Rita Levi-Montalcini approdò poi a Firenze, dove vivrà in clandestinità per qualche anno, prestando, fra l'altro, la sua collaborazione come medico volontario fra gli alleati. La professoressa Montalcini ha poi ricevuto un'offerta difficilmente rifiutabile dal Dipartimento di Zoologia della Washington University in Missouri. Ha accettato e, dopo essersi però ben assicurata di poter proseguire le stesse ricerche che aveva cominciato a Torino, è rimasta lì con incarichi prestigiosi per oltre 30 anni. È infatti diventata professore di neurobiologia. E precisamente fino al 1977. Del 1951-52 è la grande scoperta che l'ha resa veramente nota in tutto il mondo, la scoperta del fattore di crescita nervoso noto come NGF, che gioca un ruolo essenziale nella crescita e differenziazione delle cellule nervose sensoriali e simpatiche. Per le ricerche su questa molecola proteica ha infatti ottenuto nel 1986 il premio Nobel per la medicina insieme a Stanley Cohen. Dal 61 al 69 la professoressa Montalcini ha diretto il Centro di Ricerche di Neurobiologia del Consiglio Nazionale delle Ricerche a Roma, in collaborazione con l'Istituto di Biologia della Washington University, mentre dal 69 al 79 il Laboratorio di Biologia Cellulare. È inoltre da sempre molto attiva in campagne di interesse sociale, per esempio contro le mine antiuomo e per la responsabilità degli scienziati nei confronti della società. Nel 92 istituì, insieme alla sorella Paola, la Fondazione Levi-Montalcini in memoria del padre, rivolta alla formazione e all'educazione dei giovani, nonché al conferimento di borse di studio a giovani studentesse africane a livello universitario. L'obiettivo è di creare una classe di giovani donne che svolgano un ruolo di leadership nella vita scientifica e sociale del loro paese. Insomma, è un personaggio quasi immortale questa professoressa Rita Levi-Montalcini, che sì, è instancabile. Io l'ho incontrata una decina di anni fa qui a Bruxelles, quando venne per una conferenza organizzata dal ruolo delle donne nella scienza, perché lei appunto è molto sensibile a questo argomento e al fatto che le donne debbano essere, diciamo, spinte a lavorare nel campo della ricerca, trovando chiaramente delle persone che possano fungere da guida, perché spesso noi tutti abbiamo dei punti di riferimento. Quindi lei ha sempre avuto questo ruolo molto importante di fare uscire dalle donne il meglio che c'è in loro e di cui spesso loro stesse donne non sono consapevoli. E quindi è un personaggio che ancora oggi, che ha più di 100 anni, penso che trasmetta una grande forza. Allora, io proporrei di ascoltare una canzone, questa volta di una donna, la famosissima Mina, visto che siamo in tema di donne famose italiane. E non è famosa Mina? Beh, dimmi certo. Tu. Probabilmente, secondo me, non è conosciutissima all'estero, devo dire. No, in effetti no, rispetto ad altre donne cantanti è stata meno fortunata. Però insomma noi italiani la conosciamo, ma non solo la conosciamo, la amiamo veramente. Adoriamo. La adoriamo, infatti. E quindi la canzone che vi propongo si chiama Vai e Vai e Vai. Ebbene, continuiamo ancora il nostro percorso, il nostro viaggio. E con una notizia, diciamo, belga in un certo senso, perché non so, Rosanna, se hai notato che lo scorso 17 marzo il giornale The Standard ha dedicato una serie di 40 foto a quello che gli italiani hanno fatto per il Belgio, ma direi un po' per tutto il mondo. Sì, sì, era un po' ironico e comunque sì, l'ho notato, almeno mi è stato segnalato dai miei colleghi fiamminghi. Sì, ecco, tra i vari, diciamo, tra le varie foto che sono state appunto pubblicate sul giornale, Ci sono alcune che riportano alcuni personaggi di cui abbiamo parlato finora, come Benigni e Dario Fo, ci sono anche altre foto che riguardano, diciamo, un po' una serie anche di stereotipi, se vogliamo, associati agli italiani, ma di cui possiamo forse essere fieri, come ad esempio la Nutella, che secondo me viene battuta solamente dallo speculoos pasta belga, la Vespa, oppure l'album delle figurine Panini, gli oggetti firmati Alessi, le pentole Lagostina, il buonissimo caffè Illy, quanto mi manca, la Ferrari e persino Calimero. Insomma, a parte qualche personaggio di cui, insomma, proprio non andiamo fieri e non li citiamo proprio perché non ci piacciono. Assolutamente no. C'era, direi, una bella carrellata di personaggi e o cose. In tema di scienziati c'era anche riportato Guglielmo Marconi. Guglielmo Marconi è nato a Bologna nel 1874 e già da piccolo aveva dimostrato interesse per la fisica e l'elettricità. E infatti ha effettuato i suoi studi sui lavori di Maxwell, Hertz e Righi ed altri ancora. Appena ventenne ha cominciato i primi esperimenti lavorando come autodidatta e avendo come aiutante il suo maggiordomo. Questo è veramente divertente. Diciamo che era un perfetto ricercatore italiano che si adattava con ciò che aveva di fronte. E nell'estate del 1894 costruì un segnalatore di temporali costituito da una pila, un coherer, ossia un tubetto con limatura di nichel e argento posta fra due tappi d'argento, e un campanello elettrico, capace di emettere uno squillo in caso di fulmine. Il giovane Marconi proseguì nei suoi esperimenti anche all'aperto. In campagna aumentò la potenza delle emissioni e la distanza che separa il trasmettitore dal ricevitore, capace di ricevere i segnali dell'alfabeto Morse. Il 2 giugno 1896 ha depositato all'ufficio brevetti di Londra una domanda definitiva per un sistema di telegrafia senza fili, numero 12039, dal titolo Perfezionamenti nella trasmissione degli impulsi e dei segnali elettrici e negli apparecchi relativi. Nel farlo, Marconi rinunciò a ben 3 mesi di priorità sull'invenzione. Il 12 dicembre 1901 ci fu la comunicazione che costituì il primo segnale radio transoceanico. Il messaggio ricevuto era composto da 3 punti, la lettera S del codice Morse. Si arriva quindi poi al 10 dicembre del 1909, quando a Stoccolma Guglielmo Marconi ha ricevuto anche lui il premio Nobel per la fisica, condiviso con il fisico tedesco Carl Ferdinand Braun. La motivazione della Reale Accademia delle Scienze di Svezia recitò: a riconoscimento del contributo dato allo sviluppo della telegrafia senza fili. Quando nel 1912 il Titanic affondò dopo aver lanciato il segnale SOS via radio, Marconi si trovava negli Stati Uniti e accorse al porto di New York per ricevere i 705 superstiti. Intervistato dalla stampa disse: vale la pena di aver vissuto per aver dato a questa gente la possibilità di essere salvata. Insomma, di scienziati famosi d'Italia ne ha avuti tanti. Abbiamo parlato appunto della professoressa Levi Montalcini, abbiamo parlato di Guglielmo Marconi, e loro sono esempi di come però il grosso delle ricerche, quelle per le quali sono stati premiati, nel caso parliamo di 2 premi Nobel fra l'altro, appunto il grosso delle ricerche l'hanno dovuto fare, ahimè, fuori dell'Italia. E quindi adesso non vogliamo ritornare su un discorso tra virgolette scontato, nel senso che si parla persino molto spesso di fuga dei cervelli, però È vero che le teste italiane danno il meglio di sé, purtroppo molte volte in ambiti stranieri e spesso semplicemente per il fatto che all'estero si trovano delle circostanze favorevoli. Sei tu un caso di questi, Benedetta? Ma io sono soltanto in fuga, non sono un cervello, sono solo in fuga per il momento. No, vabbè, insomma, nel tuo caso non lo vedo come, come una fuga, la vedo invece come un'esperienza all'estero, che invece direi è un'altra cosa. Non è uno scappare dall'Italia, ma è fare un'esperienza all'estero con la quale chiaramente ti arricchisci, con la quale stabilisci delle relazioni, delle collaborazioni scientifiche, e che poi ti permettono quindi di lavorare meglio quando rientrerai in Italia. Ma a proposito invece proprio di veri italiani, nel senso di scienziati che hanno lavorato molto proprio nell'ambito italiano, volevo citare proprio brevissimamente il professor Silvio Garattini, che è molto conosciuto perché lo si vede spesso in televisione, oltre a scrivere, diciamo, su tutti i giornali, ed è un farmacologo che appunto a tutt'oggi, a più di 80 anni, dirige il Centro di Ricerche Farmacologiche Mario Negri di Milano. E di questo centro oggi, quest'anno, ricorre il 50° anno dalla fondazione. Si tratta di un caso veramente tutto italiano. Il professor Garattini appunto 50 anni fa volle rimanere in Italia e grazie a dei finanziamenti di un filantropo milanese che si chiamava appunto Mario Negri, ebbe la possibilità di costituire questo centro di ricerche Mario Negri, dove lui è rimasto e è ancora direttore. Quindi questa è veramente una bellissima esperienza di italianità nel campo della ricerca scientifica. Allora, io proporrei un altro brano musicale, intanto si sono fatte le 21:39 minuti, vi ricordo che I colori dell'anima, che appunto stasera a tutti i colori dell'arcobaleno, va in onda fino alle 22, quindi saremo ancora con voi per una ventina di minuti, parlandovi, raccontando di un po' qualcuno dei personaggi famosi italiani in occasione del 150° dell'Unità d'Italia, ma ovviamente possiamo fare soltanto un accenno a quelli che a me e a Benedetta questa sera sono sembrati così interessanti da menzionare o da ricordare. E ci ritroviamo quindi fra pochissimi minuti dopo questo brano musicale. A dopo. E questa era Malika Ayane, sempre su Radio Alma, nella trasmissione I colori dell'anima, che va in onda dalle 21 alle 22 di lunedì, stasera con Rosanna e Benedetta. Telefono 02 345 2656, sito internet radioalma.blogspot.com e indirizzo email colori.anima@gmail.com. Abbiamo parlato questa sera, abbiamo scelto un gruppo di personaggi di vario genere che secondo noi rappresentano il meglio dell'italianità, proprio perché anche noi vogliamo celebrare i 150 anni dell'Unità d'Italia, che come sapete si sono festeggiati lo scorso giovedì. E abbiamo parlato di attori, di scienziati, ma ovviamente l'Italia è molto di più. Per esempio Enzo Ferrari, nato a Modena nel 1898, che già nel 18 fu assunto in una piccola fabbrica di automobili riconvertita dalla fine della Prima Guerra Mondiale. E lui appunto faceva test di guida che gli piacevano moltissimo, e attraverso il suo amico Ugo Sivocci lavorò all'Alfa Romeo, che aveva introdotto alcune vetture di nuova concezione per la targa Florio del 1920. Ferrari guidò una di queste vetture, quindi lui era appunto un corridore di auto, e arrivò secondo. Nel 29 Ferrari aprì la sua azienda, la scuderia Ferrari appunto, sponsorizzata, quindi nel 29, quando aveva praticamente appena 31 anni, sponsorizzata da ricchi industriali tessili di Ferrara. E l'obiettivo principale dell'azienda era di fornire assistenza meccanica e tecnica ai ricchi acquirenti di Alfa Romeo. La scuderia Ferrari diventò un caso di studio, forte anche del fatto che era il più grande team messo insieme da una persona sola. E solo quando l'Alfa Romeo annunciò la sua decisione di ritirarsi dalle gare a partire dalla stagione del 1933 a causa di problemi finanziari, la scuderia Ferrari poté fare il suo vero ingresso nel mondo delle corse. Negli anni la scuderia Ferrari vantò grandissimi piloti tipo il famoso Tazio Nuvolari. Nel 75 ebbe una rinascita grazie alle mani e alla guida di Niki Lauda e poi, come tutti sappiamo, nel 96 con il due volte campione Michael Schumacher. E un altro rappresentante dell'italianità è senz'altro, possiamo dirlo, Luciano Pavarotti, il celebre tenore emiliano che ci ha resi famosi per, diciamo, in campo musicale davvero in tutto il mondo. Pavarotti aveva manifestato fin da subito una precoce vocazione al canto, come è testimoniato da numerosi resoconti familiari. È nel 1963 che, grazie a una fortunata coincidenza, ha raggiunto la notorietà internazionale. Sulla via dell'opera La Bohème al Covent Garden di Londra, il destino di Luciano Pavarotti incrociò quello del celebre Giuseppe Di Stefano, uno dei suoi grandi miti giovanili. Mentre nel 1965 riuscì a sbarcare per la prima volta negli Stati Uniti, a Miami, e insieme alla sopraffina acclamata Sutherland fu interprete di un'applauditissima Lucia di Lammermoor diretta da Boning. Sempre con la Sutherland debuttò con successo al Covent Garden di Londra, nella storia, nella carriera di questo grande tenore. In seguito poi al successo planetario in campo operistico, il tenore ha esteso le sue esibizioni anche al di fuori dallo stretto ambito del teatro, organizzando recitals in piazze, parchi e quant'altro, e coinvolgendo migliaia di persone nei più disparati angoli della terra. Un esito clamoroso di questo genere di manifestazioni si ha nel 1980 al Central Park di New York per una rappresentazione del Rigoletto in forma di concerto, che vide la presenza di oltre 200.000 persone. Famosissimo del resto, sempre nella stessa linea, è il Pavarotti and Friends, dove Pavarotti è riuscito a invitare e coinvolgere artisti di fama mondiale del pop e del rock per raccogliere fondi a favore di organizzazioni umanitarie internazionali. Quindi non solo ci ha resi celebri nel mondo, ma sicuramente è stato forse uno dei pochi tenori, quindi di formazione, diciamo, operistica classica, che ha portato questa formazione al grande pubblico, ad un pubblico anche giovane. Allora, benissimo, quindi dopo Pavarotti naturalmente ancora un brano musicale, questa volta non di Pavarotti ma un brano di Piero Pelù. Ci ritroviamo fra pochissimi minuti per la parte finale di questa trasmissione di oggi dei Colori dell'Anima. Mi raccomando, rimanete con noi. I Colori dell'Anima, trasmissione di lunedì 21 marzo, tra l'altro primo giorno di primavera, quindi auguri di primavera a tutti. E bisogna dire che oggi è stata una splendida giornata primaverile, vero Benedetta? Eh sì, finalmente un po' di sole. Allora, ci volevi dare un'informazione, vero? Sì, volevo comunicarvi un'iniziativa molto, molto bella a cui io parteciperò donando, diciamo, un po' della mia piccola esperienza musicale. Dunque, domenica 3 aprile Henry van der Malenstraat 23 in St. Peter's Volue ci sarà una, diciamo, possiamo definirla una fiera di carità, una charity fair in inglese, di raccolta fondi in favore delle vittime dello tsunami in Giappone. Siete invitati tutti ad intervenire dalle 10 alle ore 15. Ci saranno animazione per bambini, cibo giapponese in vendita e speriamo tanta musica. Quindi, se volete anche contribuire in questo modo, venite a trovarci. Scusa, in che paese? Quindi, ridiciamolo. A Bruxelles. Sì, Saint-Pétersvolué. Da Volouet Saint-Pierre. Ecco, per i francofoni. Tu mi fai la traduzione francese. D'accordo. In Henri van der Malenstraat. Henri van der Malenstraat, sì, non so questa la pronuncia francese, ma insomma, Henri van der Malen. D'accordo, quindi domenica 3 aprile a partire dalle ore 10 alle ore 15. Dalle 10 alle 15, quindi mi raccomando, se siete qui a Bruxelles, sarebbe carino passare per dare un supporto a questa iniziativa estremamente importante. Io invece, sempre in tema di informazioni, ve ne do una un po' più goliardica, anche se pure questa tua era goliardica, immagino. Beh, in effetti sì. Ma questa qui è altrettanto interessante, perché appunto è uno spettacolo teatrale realizzato da attori amatoriali italiani, si chiama L'Incidente ed è uno spettacolo che si terrà presso il Palais des Beaux-Arts il 20 e 21 maggio alle ore 20. Quindi per prenotazioni si può telefonare direttamente al Beaux-Arts 02 507 8200 e lo spettacolo si chiama appunto L'Incidente di Luigi Lunari. Allora, Benedetta, stiamo veramente arrivando alla fine della trasmissione, ci restano pochissimi minuti, qualche spicciolo di minuto, e abbiamo parlato quindi di attori, di scienziati, abbiamo parlato di personaggi vari, ma io volevo anche menzionare proprio con due parole il nostro famosissimo regista Federico Fellini, che ha girato dei film che sono passati veramente alla storia del cinema, tipo La strada, La dolce vita, chi non conosce La dolce vita, Le notti di Cabiria e poi ancora 8 e mezzo, Amarcord, e senz'altro poi un ricordo speciale lo potrei dare per Mario Monicelli, che come sapete è morto di recente. Ma se parliamo di attori, come non pensare a Nino Manfredi, Sofia Loren, Totò, Alberto Sordi, Ugo Tognazzi, Marcello Mastroianni, Monica Vitti, Claudia Cardinale e poi ancora giornalisti tipo Enzo Biagi. Ecco, ci siamo accorti proprio che la nostra Italia veramente ha dato vita a dei personaggi straordinari. E non solo, possiamo ancora ricordare alcuni avvenimenti che hanno davvero segnato la nostra storia più recente, come ad esempio la fantastica vittoria dell'Italia ai mondiali del 1982. E ovviamente, oppure personaggi che sono legati a questo avvenimento, sì. Quindi chiaramente pensiamo al tecnico della nazionale Enzo Berzot, ma anche pensiamo al Presidente della Repubblica Sandro Pertini, certo. Che come tutti ricorderete assistette proprio a quella famosa partita. Sì. O anche potremmo riferirci anche agli eterni rivali del ciclismo Fausto Coppi e Gino Bartali. E la rivalità tra Coppi e Bartali è stata nel secondo dopoguerra uno degli argomenti sportivi e non più dibattuti dell'Italia, quindi una delle più famose rivalità sportive del mondo del ciclismo e di tutto lo sport italiano. E io cambiando, proprio vorrei chiudere questa trasmissione proprio veramente due parole su un altro personaggio, Don Lorenzo Milani, uno di quegli uomini che per le sue scelte nette e coerenti, le sue rigide prese di posizione, il linguaggio tagliente e preciso, si tirava facilmente addosso grandi consensi o grandi dissensi, con schieramenti preconcetti che hanno spesso offuscato la sua vera dimensione. La sua vita è stata breve ma intensa, operava per far prendere coscienza ai giovani operai sulla necessità che divenissero protagonisti del loro futuro, rifuggendo da schieramenti preconcetti, ma distinguendo sempre il vero dal falso. E di lui è famoso il libro Lettera a una professoressa. E adesso, cari radioascoltatori, siamo veramente alla fine. Io vorrei ringraziare Benedetta che sei stata con me. Grazie a te Rosanna, grazie a tutti gli ascoltatori. Grazie e naturalmente ritorneremo ancora. Ovviamente ogni lunedì la trasmissione I colori dell'anima va in onda, quindi con diversi animatori, possono essere Monica e Carmen, oppure possono essere Ruland o Donatella, oppure potremo essere Rosanna e Benedetta in una prossima trasmissione. Grazie a tutti, buonanotte e a presto su Radio Alma. Viva l'Italia!